Germoglio, capitolo diciannovesimo di Mirice. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Sergio Baldelli a Città di Castello, dicembre 2007. Mirice di Giovanni Pascoli. Capitolo diciannovesimo. Germoglio. La scabra vite che il lichene ingromma come di gialla ruggine germoglia. Spuntar vidi una lucida di gomma piccola foglia. Al sol che brilla in mezzo agli umidicci solchi anche l'olmo screpolato muove, medita il vecchio rame pei viticci nuovi pur nuove, cui tremolando cercano coi lenti viticci i tralci a foglie color rame, mentre su loro tremolano ai venti anche le rame. Da qual profonda cavità m'ha scosso il canto dell'aereo cuculo? Fiorisce a spiga per le prode il rosso pan di cuculo? È del fior d'uva questa ambra che sento o una lieve traccia di viole? Dove si vede il grappolo d'argento splendere al sole? Grappolo verde pendulo che invaia alle prime acque fumide d'agosto, quando il villano sente sopra l'aia piovere mosto, mosto che cupo brontola e tra nere ombre sospira e canta a San Martino, allor che singultando nel bicchiere sdrucciola vino. Vino che rosso avanti il focolare brilla al fischiare della tramontana che giunge come un fragoroso mare e s'allontana simile a sogno, quando sulle strade volano foglie cui persegue il cuore simili a sogno, quando tutto cade, stingesi e muore. Muore anche un sogno che sognai. Germoglia la scabra vite che il lichene ingromma. Spunta da un nodo una lanosa foglia, molle di gomma. Fine del capitolo diciannovesimo.